Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per l'ultima puntata di questa stagione di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Trasmissione che ha cercato in quest'anno, siamo partiti a ottobre-novembre dell'anno scorso, a proporre in tutte le puntate, in tutte queste settimane, ogni sabato alle ore 14, domenica alle 12:30, appuntamenti, progetti, iniziative riguardanti appunto il mondo degli oratori, oratori, circoli, padronati che vanno sempre e solo sotto il nome della grande famiglia di Noi Associazione. Noi Associazione che riunisce e coordina in tutta Italia più di 1300 realtà con circa 300.000 tesserati. Abbiamo tanti territoriali che ci hanno dato una mano con contributi, con interviste, con ospiti. Noi Padova, Noi Venezia per primi, poi abbiamo intervistato anche Noi Vicenza, abbiamo sentito Noi Trieste, abbiamo sentito anche il presidente, il neo presidente nazionale di Noi Associazione, Don Marco Saiani di Noi Trento, che ci ha raccontato un po' di aspettative, un po' di progetti che l'associazione Noi sta cercando di portare avanti proprio quest'anno, che è l'anno che ricorda i 10 anni di fondazione appunto di Noi Associazione, quindi un anno importante per tracciare un bilancio, per tracciare anche delle prospettive future per questa grande famiglia che è sempre in continuo aumento. Se volete mandarci anche durante l'estate qualche email, raccontarci qualche bel progetto, abbiamo un'email fuoridinoi@libero.it. Abbiamo anche raccontato questa, diciamo, serie di appuntamenti, queste proposte, queste iniziative, queste realtà che ci sono appunto vicine, perché appunto sono circoli e oratori della nostra, del nostro Veneto, ma anche dell'Emilia Romagna. Proprio questa, in questa puntata avremo anche un ospite particolare. L'abbiamo raccontato anche attraverso il giornale, il settimanale La Vita del Popolo, così come hanno fatto gli altri territoriali per quanto riguarda Noi Padova e Noi Venezia con Gente Veneta e Difesa del Popolo. Ma è arrivata ovviamente anche la mia compagna di avventure, la Anna. Ciao Anna. Ciao Cristian, buongiorno a tutti. Ben arrivata Anna Zampieri, che rappresenta appunto, ha rappresentato in questa edizione, diciamo, 2011-2012, il collegamento che noi abbiamo voluto e abbiamo continuato appunto a raccontare, cioè la collaborazione tra Azione Cattolica Ragazzi e noi per quanto riguarda gli oratori. Anna, abbiamo avuto tanti bei gruppetti che sono venuti qui in radio per registrare, per contribuire a questa trasmissione con un piccolo contributo, raccontando cose di bello facevano l'ACR e indirettamente come vivevano, diciamo, il loro oratorio, perché tante parrocchie che sono venute qui con i propri educatori ci hanno raccontato anche che vivono l'oratorio e le attività della CR si svolgono all'interno di questi ambienti. Sei stata contenta di tutte queste risposte? Come l'Azione Cattolica appunto diocesana ha vissuto questo progetto? Allora sì, noi siamo stati molto contenti perché appunto questo progetto prima di tutto aveva l'obiettivo, ecco, di esaltare proprio il protagonismo dei ragazzi, che veramente loro sono il centro del nostro servizio, e quindi abbiamo visto i ragazzi contenti, entusiasti di partecipare a questa iniziativa e hanno raccontato anche delle belle cose, cioè messaggi anche importanti, quindi di incontro con Gesù e quindi profondi. Siamo contenti e speriamo appunto che anche loro abbiano vissuto al meglio questa esperienza insieme ai loro educatori. Li ringraziamo tanto e chissà che appunto adesso ci impegneremo per vedere altre iniziative che possano sempre valorizzarli al meglio. Perché noi abbiamo cercato anche di raccontare certamente la vita degli oratori, ma soprattutto le collaborazioni che gli oratori hanno avuto con altre realtà, con altre associazioni, perché l'unione veramente oggi fa la forza. Mettersi rete vuol dire anche distribuire meglio le energie, investire le poche risorse che purtroppo appunto abbiamo anche nelle associazioni di volontariato in progetti significativi che possono raggiungere il più ampio, diciamo, numero di persone. E abbiamo anche invitato tutti i ragazzi che sono venuti qui nella radio, magari un domani, a essere partecipi di questa radio, perché oltre a registrare il proprio contributo abbiamo avuto il nostro regista Eddie Daici, che ci ha accompagnato in quest'anno, che li accoglieva ma gli spiegava anche che cos'è questa radio. Blu Radio Veneto è una radio che racconta racconta qualcosa che non sentite in altre emittenti radiofoniche. Quindi è un invito magari ad essere protagonisti sul serio, magari un domani collaborando appunto con questa emittente interdiocesana, frutto appunto della fusione di tre realtà, che racconta appunto i progetti più significativi che si vivono all'interno delle parrocchie, all'interno delle comunità, all'interno dei paesi, dove tante volte non può trovare spazio questa voce. Quindi è un megafono appunto di news che solitamente noi non sentiamo. Quello che di bello nasce appunto frutto anche del volontariato e della gratuità. Ma dopo aver fatto questa grandissima introduzione, Anna, iniziamo con un momento musicale. E quindi, Anna, noi per diciamo concludere in bellezza, o meglio questa puntata che è appena iniziata, noi adesso lanciamo il boss. Sai chi è il boss? Ho appena letto. Come hai appena letto? Non sai chi è il boss? Se ti dico il boss, tu devi mettere un CD di Bruce Springsteen. Ah, okay. E allora mandiamo la grande canzone di un album fa, perché adesso ne è uscito un altro pochi giorni fa, ma noi siamo molto affezionati, perché vuol dire sorgere, cioè quasi la riscossa. Quindi The Rising, Bruce Springsteen. Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on. E dopo aver sentito appunto questa bella canzone, abbiamo una sorpresa, perché pochi giorni fa appunto sono stato in quel di Ferrara. Avevamo sentito Don Enrico Grabuio qualche settimana fa, che ci raccontava un po' l'esperimento del Grest, perché per loro è tutta una cosa nuova, ma soprattutto l'esperimento di un oratorio noi proprio a Ferrara, nella parrocchia della Sacra Famiglia. Loro stanno appunto in questo momento portando avanti l'esperienza del Grest, e quindi abbiamo colto l'occasione per raccogliere qualche contributo, Anna, direttamente dagli amici di Ferrara, parrocchia Sacra Famiglia. Ascoltiamo. Siamo nella parrocchia della Sacra Famiglia di Ferrara e hanno iniziato da qualche settimana il Grest, ispirato alla storia di quest'anno, Stella. E stiamo parlando con, come ti chiami? Con Mattia. Quanti anni hai? 7 anni. Bene, cosa hai fatto di bello oggi? Cosa fai di bello al Grest? Giochiamo sempre, impariamo a volere bene a Gesù. Hai fatto qualche nuova amicizia qui al Grest? Sì. Dimmi qualche nome oppure qualche persona che vuoi salutare. Jacopo e Matteo. Bene, e dopo aver sentito appunto un bambino, sentiamo anche una bambina. Come ti chiami? Eleonora. Quanti anni hai? Quasi 12. Allora, partecipi qui al Grest della Sacra Famiglia, perché ti diverti qui durante queste giornate? Moltissimo. Allora, innanzitutto raccontaci un po' quando arrivi e quando andate via dopo appunto dopo aver fatto diverse attività. Raccontaci un po' il programma della tua giornata. Quando arriviamo è molto bello, perché c'è un'accoglienza veramente interessante, dove balliamo con tanta vivacità che ci coinvolge, di tutti gli animatori. Poi c'è un momento di preghiera dove in mezzo c'è una scenetta, che drammatizzazione, che ci racconta un po' la parola della giornata, e c'è anche Don Enrico che ci racconta un po' di tutto. Poi finisce la preghiera, giochiamo e ci divertiamo, perché siamo in molte squadre e ci conosciamo durante la giornata. Possiamo conoscere vari altri bambini, tutti tra di noi, anche altri vari bambini, e anche ci avviciniamo sempre di più a Gesù. Ecco, allora, questa è l'esperienza del Grest che si sta organizzando qui proprio quest'anno, praticamente, quindi è appena iniziata. Dopo l'esperienza di quest'anno, tu dici che il prossimo anno bisogna fare il Grest qui alla Sacra Famiglia? Sì, lo spero proprio. Molto bene, grazie. Un altro animato qui del Grest della Sacra Famiglia di Ferrara, e si chiama? Chiara. Allora Chiara, tu da dove vieni? Sei di Ferrara, sei di questa parrocchia o vieni da qualche altra zona? Io vengo da Ferrara, sono nella parrocchia di Chiesol del Fosso, però ho sentito da molti miei amici che questo gli è particolarmente colpito, questo Grest, e volevo provarlo anch'io, e quindi sono venuta alla Sacra Famiglia. Bene, da quanto è che appunto partecipi a questo Grest? Tu hai iniziato fin dal primo giorno? No, ho iniziato dalla seconda settimana. Bene, allora cosa hai capito? Al Grest cosa si fa di bello? Cosa è la cosa più bella che hai trovato qui al Grest? Che c'è molta amicizia, non si litiga quasi mai, si sta molto, molto bene in compagnia, e c'è... E mi sono molto divertita, sì. Meglio al Grest o a scuola? Meglio al Grest. Che classe fai? Io la prima media. E qual è la tua materia preferita? Italiano. Chiara, ultima domanda. C'è un personaggio che ti ha particolarmente colpito della storia di quest'anno, Stella? Sì. Come si chiama? Marco. Perché? Perché con qualche battuta riusciva sempre a... per divertire, poi anche a... Sì, e anche a trovare in questa storia i luoghi oppure le tracce per trovare questo tesoro. Quindi riusciva sempre a trovare la soluzione giusta anche nei momenti più complicati. Grazie ancora. Adesso parliamo appunto, dopo aver sentito qualche animato, sentiamo appunto qualche animatore educatore qui della Grest della Sacra Famiglia di Ferrara. Allora, come è riuscito Don Enrico a convincerti a fare l'educatore del Grest? Beh, dai, ti ha pagato? No, mi è sempre piaciuto fare l'educatore, quindi in qualche modo questa cosa mi ha coinvolto, quindi mi piace e continuerò a farlo. Ma cos'è la cosa più difficile, ma anche la cosa più bella all'interno di questa organizzazione, di questa realtà del Grest? Beh, la cosa più difficile è ovviamente sistemare i giochi, apparecchiare, sparecchiare, però alla fine i bambini con la loro gioia ti compensano. Benissimo, grazie. Come ti chiami? Nicolò. Quanti anni hai? 14. Benissimo. Concludiamo in bellezza questa intervista alla Sacra Famiglia di Ferrara, perché abbiamo un'educatrice un po' a cui tutti fanno un po' riferimento. Come ti chiami? Elisabetta. Quanti anni hai? 16. Perfetto, allora Elisabetta, qui al Grest c'è qualcosa anche di molto speciale, perché non solo appunto giocano, si divertono, ma addirittura pranzano insieme. Quindi tutta la giornata insieme con questi bambini. Quanta pazienza, oppure anche quanta vivacità, quanta gioia. Allora, raccontami un po' come avete pensato questa proposta estiva, che per Ferrara è un po' nuova. Ma veramente tutto è iniziato con l'idea di Don Enrico, ma a causa del terremoto abbiamo dovuto iniziare prima. È stato un po' all'inizio un po' di improvvisazione, un po' di buttare giù idee subito, immediatamente, ma evidentemente tutte le nostre idee erano abbastanza concordate tra tutti e sono andate tutto bene, tutto filato, e poi sì, improvvisazione non manca mai, però è abbastanza organizzato tutto e benissimo. Quali sono secondo te magari se dovessi descrivere qualche qualità che deve avere un buon educatore, un buon animatore di Grest, le tue caratteristiche, cosa cerchi di trasmettere ai bambini che hai qui e che seguite, che cercate in questa maniera di animare? Fare bene il proprio dovere innanzitutto, ovvero far capire ai bambini quello che ci insegna Gesù, è la parola di vita che ci dà la preghiera, che diciamo sempre, e poi a sorridere sempre, perché non vogliamo mai vedere come una regola del nostro Grest bambini che piangono o col broncio, e sempre col sorriso, perché fa piacere anche noi, è come un ringraziamento nei nostri confronti. Mi pare appunto che l'esperienza del Grest quest'anno, la Sacra Famiglia, sia andata molto bene, quindi sicuramente si rinnoverà anche l'anno prossimo, però c'è anche un piccolo appello, almeno quello che tu vorresti fare, perché vi manca qualcosa al Grest, quindi per il Grest del 2013 cosa vorresti avere qui alla Sacra Famiglia? A causa del evento sismico non abbiamo abbastanza fondi per prendere materiale o magari quelle poche cose che ci possono servire per il Grest, quindi chiedo alle altre diocesi, alle altre associazioni di aiutarci magari con anche un euro a testa, e noi riusciremo anche con quello a prendere qualcosa per i nostri bambini. Bene, allora questo appello lo rivolgiamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, e quindi anche diciamo a tutti i Grest magari che hanno del materiale e che possono ovviamente creare un piccolo gemellaggio, un aiuto anche alla Sacra Famiglia di Ferrara. Grazie ancora. Grazie a lei. E dalla parrocchia della Sacra Famiglia di Ferrara concludiamo con Maglias! Benissimo, allora dopo aver ascoltato i nostri amici di Ferrara, averli salutati, andiamo ovviamente a un altro brano musicale. E quindi abbiamo i mitici Culture Club di Boy George che ci cantano Karma Chameleon. Ancora pochissimi minuti per questa ultima puntata di Fuori di Noi per quanto riguarda questa stagione, Anna. Ricordiamo che ci hanno mandato un appuntamento importante sabato 30 giugno alle ore 21 presso l'oratorio Don Giuseppe Tognana di Arcade, concerto evento del gruppo Sicomoro di Pistoia. Appuntamento appunto anche speciale perché arrivano appunto da Pistoia questi ragazzi appunto e sono qui per la prima volta in Veneto. Quindi all'oratorio di Arcade sabato 30 giugno alle ore 21, grande concerto, grande appuntamento, non mancate. Anna, allora ti sei divertita quest'anno? Riproveremo anche il prossimo anno magari? Speriamo sì che ci sia la possibilità, insomma. E no, grazie davvero a te Christian per questa bella esperienza vissuta, a Eddie per la pazienza e per le competenze insomma che ha messo in campo. Sono stata contenta di fare questa avventura ecco con voi, questo cammino in quest'anno, quindi grazie a tutti gli ascoltatori. Ecco, è stato un grande piacere anche per noi averti conosciuto e aver collaborato con te. Speriamo appunto, in base appunto anche alla programmazione eccetera, che ci sia la possibilità di ritornare anche il prossimo anno e raccontare altre belle iniziative, belle realtà come quelle che abbiamo raccontato quest'anno, sia dell'Azione Cattolica sia del Noi. Magari ci sarà qualche altra associazione. Ci sono tanti appuntamenti quest'estate. Il Grest potete trovarlo sul sito www.noigrest.it. abbiamo la festa d'estate il 6 luglio, abbiamo tante altre feste, il raduno del Triveneto sempre per quanto riguarda il Grest il 10, ma andate a vedere sul sito per prenotazioni, appuntamenti e tante altre cose. Ringraziamo ancora la regia di Eddie Daici e appunto cosa dire ancora, cosa aggiungere? Innanzitutto viva gli oratori, viva il mondo del Noi e una buonissima estate a tutti gli animatori, a tutti gli educatori e a tutti i volontari che lavorano d'estate gratuitamente per il bene della nostra associazione. E a tutti i giovani, viva Noi ragazzi. Associazione e tutti i nostri giovani che saranno impegnati, per esempio quelli dell'Azione Cattolica, nei campi estivi, sì, classici campi scuola. I nostri ragazzi che sono i nostri gioielli. I nostri gioielli, quindi buona estate a tutti, ciao a tutti e grazie! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.